si fa. Dimmelo tu. Quello che è successo dovevamo prevederlo, forse anche evitarlo. Non ti sembro credibile se lo dico stringendoti forte la mano, ma l'amore come sempre si autoinvita senza tanti complimenti. Riconosco il suono dei suoi passi nelle scale, quella calma strafottente di chi è certo di arrivare. È già dietro la mia porta con la sigaretta in bocca. Prova almeno tu, almeno tu, a nasconderti. Resta ancora un po' qui dentro me. Fammi addormentare e poi vai se devi andare. E se non mi sveglio, tu non sentirti colpevole. Sto soltanto rendendo il momento indelebile. Quanta luce si nasconde nelle pieghe più profonde dei tuoi occhi. Sento già il rumore del suo sguardo minaccioso che si aggira dentro casa. Mi sorprende nello specchio, mi afferra dai capelli e mi sbatte contro il muro. Prova almeno tu, a difenderti. Sento già l'odore del tuo vento in lontananza che fa sbattere le porte. Non son pronto mai abbastanza. Sei già dietro la finestra con la faccia ancora tesa. Mi fai un cenno con la testa come a dire dai che andiamo via da qui. Da quello che non siamo, via da chi ci ha dato e tolto tutto, via così, senza chiederci se è giusto. Se devi andare, io ho ancora un po' da fare.